Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Chiami Milan, non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. Penso che bisogna mettersi a lavorare un po', perché in Grecia fanno una cosa molto semplice: non lavorano, vanno in pensione a 50 anni, scusi. Costui è Bernardo Caprotti, il leader di Esselunga. Coi soldi che le do non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me. Scusi, come noi abbiamo 20.000 forestali in Sicilia senza foreste, bisogna anche creare del lavoro che produca, non del lavoro mantenuto. Questo mi ha detto. Molti dicono che questa crisi greca avrà ripercussioni serie sull'Italia. Allora, ma l'Italia fa la Ferrari. Scusi, l'Italia c'è anche l'Esselunga, ma sì, no, l'Italia. L'Italia non ha nessun problema, secondo lei, di questo genere. Nessun problema ce l'ha, anche l'Italia forse ha bisogno di lavorare un pochino in più. E un grosso pugno in faccia mi arrivò. Andai a piedi alla guardia medica. Eccolo qui, intervistato dalla mia amica Valentina Baldisserri, è il nostro Bernardo Caprotti di Esselunga. Io ho sempre adorato Caprotti, devo dire, sempre adorato Caprotti. Ma non è che devo fare lo spot all'Esselunga, non è che non mi paga, tranquillo, non mi manda neanche un plum cake dell'Esselunga, no? Però voglio dire, quando ieri l'ho sentita dire ma i greci non lavorano, dai, ma poi ha detto anche ma scusi, ma se io la mando in pensione a 50 anni con 20.000 euro, lei mi vota o no? Questo è, ecco, perché è esagerato ovviamente, 20.000 euro e a 50 anni o a 40 anni no, però il succo è quello che conta, no? Cioè, dice Caprotti, un sistema che non regge più, un sistema in cui si sono dati un po' troppi privilegi e ora viene tutto da pagare. Oh, a proposito di pagare, oggi ho letto questa cifra. Sapete nell'ultimo mese quanti soldi sono stati bruciati alla borsa, anzi alle borse cinesi, perché sono due le borse cinesi? 3.000 miliardi di dollari in un mese. Io non so neanche scriverla con quanti zeri è. 3.000 miliardi di dollari bruciati in Cina in un mese. Non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero. Ma noi ci accapigliamo per la Grecia, ma una cifra che scrive oggi il giornale, ce l'ho qua davanti, vale 15 volte il PIL greco. Altro che, voglio dire, la Grecia è come un furuncolo, insomma, rispetto a 3.000 miliardi di dollari. Così, puff, in un mese. Qui invece che succede? Le solite cose, Berlusconi è stato condannato in primo grado a 3 anni di carcere. Attaccare. Altro che attaccare. 3 anni di carcere e interdizione dai pubblici uffici in primo grado per la compravendita dei senatori, la vicenda De Gregorio quando c'era il governo Prodi nel 2006-2008. Il tribunale di Napoli ha condannato Berlusconi a 3 anni in primo grado per compravendita dei senatori. E tanto andrà tutto in prescrizione. Al 6 novembre finirà tutto in prescrizione. Dichiara Berlusconi Silvio e la Vitola Walter colpevoli del reato loro ascritto e per l'effetto li condanna alla pena di 1 anno di reclusione ciascuno. Attaccare! Sì, c'è da dire che il giudice Galletto praticamente non si è sentito di anni e si è mangiato la parola, proprio era la parola decisiva. Di 3 anni. 3 anni. 3 anni. Allora, questo è 24 mattino, sono le 6:32 minuti, Lorenzo Nespoli è con noi in redazione, ormai stiamo veramente sui gomiti per arrivare come i Marines all'ultimo traguardo. Ah, perché mi indicano Peter, hai fatto i Marines? No. No, Peter Beschabè è l'ultimo giorno? Mamma mia. Oggi è anche il compleanno di Veronica Gentili, che non è con noi, ma alla quale mandiamo un grandissimo abbraccio, un grandissimo bacio, un grandissimo... Cioè, così ci stringiamo tutti con Veronica Gentili per i suoi 23 anni portati splendidamente. E basta, insomma. Peter Beschabè è all'ultimo giorno, apri il Parlamento per l'ultima volta, per quel che ti riguarda. Adesso prima di andare in vacanza. Tra gli stambecchi, ovviamente, stambecchi, caprioli, grolle, montagne, vette, scarponi, picozza e penna nera, e via. Allora, voglio salutare subito un interista, Alessandro Robecchi, che, al quale devo anche un grazie perché mi ha segnalato quella di Mihajlovic. Buongiorno a tutti. Se tu ti chiami Milan, non puoi volare basso. Non è male questa. Ma parlava di te, non della squadra. È ovvio. Potrei cominciare a montarmi la testa. Senti, quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Quando ti chiami Milan, vabbè. Grande Mihajlovic, mi sta già facendo sognare. Poi il 2 ottobre mi sveglierò. Ma per il momento si sa che in agosto è bello sognare. Tutto bene? Sulla carta tutti forti. Sulla carta tutti forti. Poi si gioca sull'erba, quindi questo è un problema. Vabbè. Va bene. Buona giornata. Buona giornata anche a te. Ti ripresento un uomo che hai già reincrociato dopo anni di battaglie a cuore e al male. No, a cuore no, forse al male. A cuore, non al male. Non sono mica l'età di Vincino. Ma il male era risorto. Poi è risparito. Un po' come l'unità. Vincino, come stai? Eccoci. Il male, sì. Basta, è rimorto. È come, fai come l'unità. Sì, prendete i debiti, fateli, accollateli alla comunità e via. Prendete i debiti. L'unità è un gran bel giornale di satira, bisogna dire oggi. Attualmente, sicuro. Tra Staino, che è bravissimo, che io, come dire, considero uno dei più bravi ci sono. Ma no? È l'unico lì che fa satira. Veltroni la domenica, che è come scrive stronzate lui la domenica, nessun altro, no? Bisogna dire. Ah, io no, pensavo. C'è un silenzio. Pensavo solo Staino fosse autorizza. No. C'è Veltroni, ce ne sono altri. Vabbè. Ha iniziato toccando la piano. Ecco, È sempre Vincino. Così. No, ma io voglio bene a Veltroni. Sì, infatti pensa se gli voleva male, non lo so, se gli volevi male cosa dicevi? Guarda che ci salutiamo, ci abbracciamo, ci mandiamo le cose, ci citiamo, no, assolutamente. Cos'è? Nel suo film di Berlinguer mi ha citato, io l'ho citato. Benissimo. È una questione di affetto. Comunque, visto che avete citato l'unità, io invece vi voglio riportare un po' indietro agli anni di Vincino, agli anni del fascismo. Allora, perché ieri il fascismo è ritornato prepotentemente all'interno della Camera con Ignazio La Russa, che ha detto questo. Io penso che prima o poi un dibattito storico sulle ombre, ma anche sulle luci del fascismo, che per esempio la chiamata diretta se la sarebbe potuta permettere, prima o poi quest'Aula debba farla. Oh, un bel dibattito sulle luci del fascismo. Lo facciamo qui a 24 mattino con Alessandro Robecchi che ci illumina sulle luci del fascismo. Quali l'istituto sono state... luce. L'istituto luce. Poi tu Robecchi che dici? Dai, forza. Ma io dico che è una cosa vergognosa, primo. La seconda cosa è che non c'è niente da fare, il DNA è sempre quello lì. come li metti, come li giri, fanno i moderni, mandano i tweet e poi alla fine sono sempre lì col passo dell'oca e il salto nel cerchio di fuoco. Posso dire, il mio commento politico è: due punti, che palle, che ancora palle. Lì siamo, sì, sì. Ancora lì. No, ma poi ha chiesto in maniera ufficiale un dibattito parlamentare. Ma ve lo vedete un dibattito parlamentare? Allora si apre la seduta all'ordine del giorno, dibattito chiesto da Ignazio La Russa su luci e ombre del fascismo. Sì, no, ma siamo al grottesco, al grottesco. D'altronde è anche vero che a cercare delle luci si fa un po' fatica, quindi fare il dibattito. Adesso falle cercare alla Russa. Adesso comunque Vincino, sì, a parte l'Istituto Luce, ci dirà un'altra luce, sì, del fascismo. Vincino. Sì, quando della Russa tirò una bomba ananas ai poliziotti nel 69, 69. Beh, quella non è una luce del fascismo, scusa. No, ne ammazzarono uno o due, credo. No, dai. Sì, era sicuro. Fu assolto poi dalla cosa, ma lui era nel gruppo che tirarono quella SRCM, qualcosa. E vabbè, e questa però non è una luce, non è una luce. Dai. Ma cosa devo fare io con Vincino? Fece luce, ma lui fa è satira. La storia questa, però. Lo so che storia. C'è anche il botto, Fu assolto in quel processo perché era figlio di che poi la nascono di padre in figlio. Non è. Era figlio di federale lui. Però. Di federale. Vabbè. Di federale. Vabbè. Comunque la Russa. Il federalismo aveva nel sangue loro. En passant faccio notare che lui ha detto questa stupidaggine, adesso sarò moderato, ha detto questa cazzata, dice, parlando della chiamata diretta dei docenti da parte del prete, parlava della riforma della scuola. Che in effetti questa cosa di tutti i poteri al preside che c'è nella riforma della scuola c'era nell'articolo, credo, 7 della legge del 23, che era la legge Gentile sulla riforma della scuola del Paese. Però senti, a questo proposito, sempre la Russa, parlando di fascismo, dice: ma no, il PD non è fascista. E perché? Senti perché? Ho sentito veramente riecheggiare in quest'aula ripetutamente la domanda: ma il Partito Democratico è un partito fascista? Beh, voglio tranquillizzare, state tranquilli, no, sono un esperto, non lo è. Sono un esperto, ma no, ma vi rendete conto? Uno studioso. Questa è una teoria anche radicale, diciamo, no? La teoria radicale è questa cosa qua, che c'è una continuità dal Partito Unico Fascista a tutti i vari partiti che seguono dopo, sì, è una continuità statale che continua. Questo dopo il digiuno o prima? Dopo il digiuno radicale, mastichiamo politica. Comunque mi ricordava la famosa frase di Benigni, non so se l'abbiamo recuperata, la famosa frase di Benigni, storica, del anche Hitler un ponte o una scuola l'avrà costruita, esatto. No? Ecco. Questa... avrà detto buongiorno a qualcuno, anche il mostro di Firenze educatamente saluta qualche signora quando lo incrocia, ma sentitela, Benigni, mitica, Ti ci ha fatto delle cose buone, certamente. Anche Hitler o Stalin, un ponte, una strada l'avranno fatto. Anche il mostro di Firenze l'avrà detto buongiorno a qualcuno qualche volta. Sarebbe come se io invitassi un elettricista a casa, no? Dico: scusi, mi rifà l'impianto, prego. Quello mi rifà l'impianto, fatto bene. Nel frattempo mi tromba la moglie, mi sventra la figlia, mi violenta la cognata, mi stupra il nonno. Dico: oh, ma questo è matto! No, però ha fatto delle cose buone, guarda che impianto. L'impianto tutto a regola, tutto a regola, l'impianto tutto a posto. Ma costruirono poste dappertutto, E infatti vedi, hanno fatto delle cose buone. Uguali, orribili, proprio con quelle colonne terrificanti che poi il De Chirico cercava di abilitare, ma non ci riusciva manco lui, no? Non ci riusciva, assolutamente. Non... Poi c'erano gli allievi, che qualcuno invece diventò bravo. Sventrarono naturalmente tutto lo sventrabile a Roma, imperiali. Questa è un'ombra. Sventrarono là al, come si chiama? Al, quella chiesetta là che sta al centro, al Vaticano. E no? Se non la sai tu. Perché, sì. E se non lo sai tu, a me lo chiedi. La spina dei Borghi. Ah, ecco, questa, questa, cioè, è, un, uno, questa è un'ombra. Uno anche. Arrivava al Vaticano, a un certo punto, paf, c'era un'apparizione pazzesca. Allora, Piacentini, che era uno intelligente, un idiota simile come architetto non si è mai visto in tutta la storia, allora dice, no che bello, brambete, e distruggiamo qualche cosa come... E questa è un'altra, è un'altra ombra, un'altra ombra. Comunque vorrei far notare la vignetta di Vincino, di Vincino oggi sul Foglio, 3 anni a Berlusconi per 3 capelli rimasti, viva il pelo, viva il terzo pelo. Quella è una storia, ora no, vabbè, adesso, adesso ne parliamo, però prima vorrei capire, vorrei capire da Vincino perché c'è stato un episodio che vorrei ci confermasse in onda. È stato fermato per... Allora, questo signore qua, questo aspetta Vincino, sei stato fermato per la prima volta per strada da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, vero? Da un fermato, era un'edicola, andai in edicola per comprare un giornale e questo mi disse, io l'amo moltissimo, lei è bravissimo, meraviglioso, il più grande disegnatore che c'è in Italia. Vabbè, adesso non esagerare. Ma perché? Così mi ha detto, se no mica rimanevo così. Vabbè, scioccato, però... Ma perché ce l'ha tanto con Grillo e con noi grillini e così? Perché ti ascolta qui e tu gli hai risposto? E perché io sono rimasto quasi senza parole. Perché non mi aspettavo che uno che mi amasse così tanto apprezzasse il mio disegno. Allora ho detto, dove ho sbagliato? Dove hai sbagliato? Vabbè, ma ti sei interrogato dentro, cioè perché ce l'hai con Grillo? Ho pensato, ma guarda, quasi quasi se io passassi dall'altra parte, come dire, potrei anche guadagnare numericamente. Ho avuto questo lieve pensiero, no? Ti sei chiesto che cosa c'hai contro Beppe Grillo? Ti sei dato una risposta? Cosa ti hanno fatto? Sì, no, io l'ho spiegato. Guardi, noi autori di satira dobbiamo fare gli autori di satira, perché sennò facciamo stronzate in mano. Allora, uno, i vari difetti degli autori di satira, il moralismo, diventiamo moralisti. E vedi come è finito povero Michele Serra, che tanto bene, ma il moralismo l'ha rovinato totalmente, no? No, ma io gli voglio bene a Michele, lui lo sa, ci vogliamo bene, però anche là, scusami, il moralismo è il difetto peggiore degli autori di satira. Vabbè, ho capito. Se, quindi bisogna essere corrosivi. Sì, ma... Non corrosivi, ma non, come dire, cioè il moralismo è una cosa e la satira è un'altra cosa. Vabbè, ho capito, ma che ti ha fatto? Che non vuol dire non avere una posizione morale. Sì, lo so, però non ho ancora capito che ti ha fatto il Movimento 5 Stelle. Che non ho ancora capito che ti hanno fatto al Movimento 5 Stelle. Perché ce l'hai su con loro così tanto? Perché le sbagliano tutte, non ne ha azzeccata una, uno dovrebbe fare, allora un autore, se io facessi un movimento, farei, hai presente i 100 fiori, 1000 con le luci, queste cose qua. Tutti, ognuno chi la pensa peggio, va benissimo tutto, un po' come fanno i radicali, è così, sei contro di me. Tu hai capito, hai capito Robecchi perché ce l'ha col Movimento 5 Stelle? Tutto chiaro. Perché ce la deve avere con chiunque, giustamente, perché è il suo mestiere. Però io dico, Vincio, pensaci, perché quelli lì uno scanner te lo comprano al volo. è vero. Lo scanner è arrivato, lo scanner dal Foglio? No, sono riuscito a riparare quello là. Aspetta, però ieri sono stato al Foglio tutto il giorno. Certo, perché non gli puoi mandare più le vignette, devi fargliele lì, perché sennò non te le... No, cioè, ma poi ho capito che in realtà non è un brutto ambientino così. Però Vincino, se dici che i radicali non ne azzecca, se dici che il Movimento 5 Stelle non ne azzecca una, io sono d'accordo. Sì. Diciamo che anche stare tutto il giorno al Foglio non è che ne azzeccano tante. No, esatto. Ci sono giornate migliori da passare. Ma vai a stare tutto un giorno al Corriere della Sera. E allora io ti dico, la mia entrata al Corriere della Sera, e guardi, l'ingresso fornitori è di là. L'ingresso fornitori è di là. Fornitori. Ma non è che è cambiato negli anni, no, più o meno sempre. Io andavo una volta all'anno. allora vai al... fornitori era di là. Era di là, era di là. Allora vai al foglio, vai al foglio solo perché lì ti lasciano entrare. Esatto, dai. Esatto. Vabbè, ma dai, adesso no, aspetta un attimo, ma... che dobbiamo andare al traffico. Poi voglio chiedervi cosa ne pensate della Grecia. E poi vi dovete preparare le palette, da giudici stile X Factor, perché c'è una politica che canta, mica una politica qualunque, la presidente del Friuli Venezia Giulia, nonché vice segretario del PD, Deborah Serracchiani, che canta tra poco. Alessandro, mandami il traffico, che c'è più bordello nelle nostre autostrade che in Grecia. 24 mattino. Alessandro, sono tramviere di Roma. Se volete fare formazione corretta, andate a formare veramente, no, che c'è ragione Marino, perché questa protesta dei macchinisti, che non è una protesta e neanche uno sciopero bianco, è un'applicazione del regolamento. Se un macchinista non va a lavorare, non sta fermo in stazione, quindi si vede, non c'è bisogno del badge. Pensi veramente che sia il badge il problema? Caro Milan, ho sentito i guai della metropolitana di Roma. Il problema di fondo in tutta Italia è che finché la parola licenziamento nel settore pubblico è un tabù, i servizi non potranno mai migliorare. Milan, io non so voi giornalisti che storia state raccontando sulla Grecia, ma la Grecia fallita. Lunedì mattina la Grecia porta, se fosse un'azienda, i libri in tribunale. Basta con Bonanno e Salvini che continuano a sblatarare sull'euro, che non va bene l'euro, e loro si prendono 15.000 euro al mese. Se tanto gli fa schifo l'Europa, che escano da quel Parlamento dove non fanno nulla, in questa maniera almeno hanno diritto di brontolare sul Parlamento europeo. Ma signor Vincino, ma che lingua parla? Forse è meglio che disegna vignette. Almeno così evitiamo lamenti e belati incomprensibili. Belati, i belati di Vincino, eccolo qua. Guardi, gliela spiego subito la lingua. Allora, no, mio sì. Padre è Cairo Montenotte, che è un paese praticamente tra la Liguria e il Piemonte, dove sì, l'acqua la chiamano Lewa. Ecco qua, è tutto lì di conseguenza, no? Mia madre invece tra Trapani e Palermo, dove sì, altro linguaggio, da banna a banna, come dire, era quindi sei un miscuglio. Unisce l'Italia, ha fatto i mille. Pensa, a 6 anni uno mi sfotteva e mi chiamava Togliatti. Togliatti, vabbè, sì. Ma che c'entra questo? Con la perché avevo gli occhiali, solo per questo. I famosi occhiali. Allora vi voglio far sentire, a cominciare, qui perdo la voce, dal mitico nostro Alberto Forchielli, che 2 giorni fa ha sentenziato così, lui da Hong Kong, presidente del Mandarin Partners, presidente dell'Osservatorio Asia. Sentite sulla Grecia, Non ne usciamo più, la Grecia è un casino attaccato ai maroni, diamogli da mangiare, diamogli un po' di benzina, capito? Evitiamo la catastrofe umanitaria, condoniamogli gran parte del debito, ma che sia morta lì. Capito? Che sia morta lì, è un gattino aggrappato ai maroni, ancora Forchielli. All'opinione pubblica dei greci, è un'impressione pazzesca. Cioè che pensano? Sono dei cialtroni assoluti, secondo la ragione per cui... Non i greci come popolo, no, dai, i greci come governo. Sì. Cialtroni assoluti. Vabbè, Forchielli è così. È la spiegazione della crisi su base etnica. Ma Forchielli è così. Forchielli è così. Ma un po' ha detto quello che ha detto Caprotti, cioè non lavorano. Esatto. Come si ci scrive al Mandarino Club? Io vorrei scrivermi subito al Mandarino Club. presentami tu. Al Mandarino Club. No, Robecchi, aspetta, Robecchi, cosa c'è che non va? Che faresti tu, Robecchi, per la Grecia? No, la salveresti. Io sostengo che se tu ti chiami comunità, come si chiamava una volta la comunità europea, che adesso si chiama Unione, non so perché hanno levato quella parola bellissima che era comunità, se tu sei una comunità devi aiutare chi ha meno, e chi ha più aiuta chi ha meno. Si parla tanto i greci vanno in pensione a 50 anni, a parte che non è vero. Non è vero. È una stupidaggine propagandistica. Però allora io potrei dirti che invece in Norvegia o in Finlandia, ma addirittura in Francia, senza andare così lontano, lo Stato ti paga la babysitter. Svizzera, e quindi allora dovrei dire i francesi assistiti che lo stanno. Ma non è così, ma le cose vanno vissute nel complesso. Nel complesso è un sistema che si regge poco. Ecco. Posso dire una cosa contro i greci? Aspetta, deve dire una cosa contro i greci, deve farci amici tutti i greci, Vincino. Sì. Hai presente il mare, quello storico che funzionava bene alla grande 1978-79? Nel 79 vado in Grecia e scopro che lo copiavano paro paro. Sì. E usciva uguale, stessi colori, tutto soltanto scritto in greco. Io non ho capito niente. Cos'è che ci copiavano? Il male, ci copiavano. Questa è la cosa più cattiva. Questa è la cosa più cattiva nei confronti dei greci che Vincino in questo momento può dire. Io sostengo questo: che se un paese. Io ero felice per loro. Se un paese come l'Italia tiene insieme la Lombardia, che ha un alto reddito, e la Calabria, che ha un basso reddito, anche l'Europa potrebbe farlo. Comunità come l'Europa deve tenere insieme la Finlandia, che ha un alto reddito, un alto welfare, e la Grecia, che ce l'ha bassa, quindi armonizzare queste cose. Questo se vabbè, questo, ma infatti, guarda, tra l'altro, gli americani ci dicono, e dicono ieri, l'hanno detto molto forte: salvate la Grecia, salviamo la Grecia, ristrutturiamo il suo debito. Il debito della Grecia è insostenibile, non si può prenderli per il collo, quindi gli americani non vogliono che salti la Grecia. Ma devo, come promesso, se avete le palette in mano da 0 a 10, come alle scuole elementari, da 0 a 10, farvi sentire a Radio Rock, credo. Ogni tanto Radio Rock prendono i politici, li intercettano, fanno questa cosa straordinaria. Deborah Serracchiani che canta Balliamo sul mondo di Ligabue. Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica, cadremo ballando sul mondo, lo sai, si scivola, facciamo fandango, là sotto qualcuno riderà, balliamo sul mondo. Siamo scelti al 15%, ti giuro, dal 32 al 15%. Sì. Addirittura sì. La Serracchiani è così decisiva nello spostare voti. Sì. 13%. Aveva anche un tutor, tra l'altro, a fianco. Ma perché ce l'avete così tanto con una ragazza che non ha paura di dire quello che pensa Re? Io le do 10 per agevolare un cambio di lavoro veloce e dare la strada della canzone. Ecco. Vabbè, io vi devo salutare, Alessandro Robecchi e Vincino. Come sempre siete stati simpaticissimi e grandissimi. Vincino, mi raccomando, se incontri quelli del Movimento 5 Stelle, rifletti dentro di te. Ciao, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:17 minuti, siamo pronti a leggere i giornali e poi tratteremo vari temi. Anche oggi parleremo di quel caso della Tanghera, la professoressa che con la legge 104 andava a lezioni a fare i campionati di tango e che però è stata prosciolta nel mondo della scuola. Ne parleremo alle 8:15. Ma avremo anche Carlo Cottarelli, ex Mani di Forbice, il commissario della Spending Review, che ora è al Fondo Monetario Internazionale, è tornato al Fondo Monetario, segue il dossier Grecia ma anche il dossier Italia. Insomma, parleremo di Grecia alle 9:05 con il punto di vista del Fondo Monetario, Carlo Cottarelli ai nostri microfoni. E ovviamente parleremo di tante cose come al solito. Intanto andiamo a sfogliare i giornali, vediamo che cosa ci propongono oggi in edicola. In questo giovedì 9 luglio Il Sole 24 Ore apre: borse cinesi impicchiata, contagio in tutta l'Asia, Shanghai perde un altro 6% anche ieri, in un mese bruciati 3.000 miliardi di dollari, anche se oggi abbiamo visto che le borse vanno un po' meglio in Asia. Per il Corriere della Sera, Europa e America divise sulla Grecia, pressioni dagli Stati Uniti per tagliare il debito di Atene. Per Repubblica, Tsipras apre alle richieste europee, Cina shock, crolla la borsa. Mentre La Stampa, Tsipras attacca le banche e chiede 50 miliardi all'Unione Europea. Il Messaggero, Tsipras sfida l'Unione Europea, ecco il piano. Mentre il Giornale, nuovi tagli e tasse alle pensioni, così l'Italia a un passo dalla Grecia. Questo è il titolo molto poco benaugurante per il Giornale. L'Unità invece, la crisi non è uguale per tutti. Il rapporto INPS conferma gli enormi squilibri, 2 milioni di pensionati sono sotto i 500 euro. Anche Libero sulle pensioni, ecco le pensioni di Renzi ci ridurranno come i greci. Come vedete, la Grecia appare ovunque anche per raffronti, secondo Libero il Giornale, con la situazione italiana. Ovviamente speriamo di no. Voglio partire però sempre dalla vicenda a Roma, ci sono altri articoli dopo la relazione del prefetto Gabrielli, ora sono comparsi e compaiono sui giornali i primi nomi delle persone che il prefetto Gabrielli dice vanno letteralmente commissariate all'interno della macchina amministrativa comunale della capitale italiana. La scure di Gabrielli sul capo dei burocrati. È il titolo di pagina 14 di Repubblica, l'articolo di Carlo Bonini, che ieri era ai nostri microfoni. Perché la scure sul capo dei burocrati? Perché Gabrielli fa nomi e cognomi. Per esempio, raccomanda nelle conclusioni l'immediata rimozione dell'attuale segretario e direttore generale del comune, Liborio Iudicello, è il più alto burocrate della città. L'uomo che era stato segretario generale della provincia di Firenze quando era presidente l'attuale premier Renzi, e che del Presidente del Consiglio della sua amicizia ha spesso fatto vanto, e da allora, quantomeno negli ultimi 7 anni, è buono per tutte le stagioni, sia con Alemanno, ora con Marino. E Gabrielli dice va rimosso. Ma non è il solo a pagare. Gabrielli raccomanda che con lui vengano immediatamente sospesi dall'incarico e perseguiti disciplinarmente 20 tra dirigenti e funzionari attualmente impiegati nei dipartimenti travolti dall'inchiesta Mafia Capitale, il Dipartimento Tutela Ambiente, quello delle politiche sociali e migranti, quello per le politiche abitative. Il prefetto sollecita anche l'immediato annullamento di numerosi affidamenti che vedono protagoniste società municipalizzate e controllate dal comune, l'AMA, l'ente EUR, Multiservizi, Marco Polo, e infine Gabrielli sollecita lo scioglimento del municipio 10, il municipio di Ostia, già commissariato dal comune con l'assessore alla legalità Sabella. Ma questi i nomi anche sul Corriere della Sera, ecco i dirigenti da rimuovere. Ora c'è da dire che deciderà Alfano, ha 3 mesi di tempo, anche se Alfano ha fatto sapere che non prenderà tutti e 3 mesi, quindi probabilmente interverrà prima. Ma i nomi ora sono scritti nero su bianco. Oh, invece ritorna in auge l'ex presidente della Regione Lombardia, oggi senatore del Nuovo Centrodestra, Roberto Formigoni, il protagonista sempre delle vacanze discusse, quelle pagate da altri, dall'imprenditore Daccò. Perché torna sulle prime pagine dei giornali? Perché ora Formigoni ha dato l'ennesima versione, come racconta Franco Vanni su Repubblica, pagina 17. Vacanze pagate, era solo amicizia. Eccola qui la nuova versione dei fatti, l'ennesima, senza rispondere però alle domande dei magistrati. Pierangelo Daccò mi invitava a bordo delle sue barche e la mia unica colpa è avere accettato l'invito di un amico. Non si tratta di utilità, ma di scambi tra amici. Prima aveva detto Formigoni che non c'era alcun tipo di rapporto con Daccò sul lavoro, poi aveva detto ho pagato le vacanze e lo dimostrerò, poi aveva detto di avere perso le ricevute delle spese per le vacanze, ora la versione effettivamente me le ha pagate per amicizia Daccò. Ma spunta una nuova vicenda, come racconta sempre Repubblica, quadri comprati dalle Ferrovie Nord Milano e comprati, secondo alcuni, proprio per regalarli al presidente Formigoni. Emilio Randaccio, sempre su Repubblica, le tele sacre del celeste, dono della SPA dei treni locali, una vera e propria pinacoteca privata composta solo da opere di arte sacra, rigorosamente oggetti di cui è stato omaggiato negli anni l'ex governatore della Lombardia. Lo dice nella testimonianza Ferrario Ippolito, fino a qualche mese fa responsabile di una delle gallerie d'arte più famose del centro di Milano, la sacerdote di Piazza San Fedele. Ippolito, lo scorso 22 maggio, convocato come testimone, dice appunto che quei cadeau per Natale in realtà erano una consuetudine. Nel 2009 un mio cliente abituale aveva pagato un primo quadro destinato a Formigoni, 50.000 euro per una tela fiamminga del 600 attribuita al pittore Marcellus Kofferman. E racconta Ippolito: ricordo di essere andato direttamente nella camera da letto di Formigoni per appendere l'opera. Scrive Repubblica: il problema è che però Ferrovie Nord avrebbe pagato queste tele ed è una società controllata proprio dalla regione Lombardia. Insomma, questa nuova vicenda dei quadri a casa di Formigoni. Vedremo se è così. Vi capita ogni tanto di ricevere delle telefonate a casa di qualcuno che vi vuole vendere qualcosa? Io rispondo poco ormai perché capisco il numero, ma faccio rispondere mia moglie perché è uno spettacolo. Andrebbe filmata mia moglie per la giugulare che le esce ogni volta che dice inutilmente, urlando, di non chiamare più e di depennare il numero dagli elenchi, cosa che puntualmente non fanno dopo aver rassicurato sì mi scusi, lo faremo subito, e richiama dopo mezz'ora se non dopo un giorno. Beh, sappiate che c'è un giudice che ha garantito e dato e riconosciuto un risarcimento da $230.000 in America. È successo in America, vabbè, comunque è successo in America, in Texas. Risarcimento da $230.000 perché tormentata dalle telefonate spot. Giampaolo Pioli lo racconta, pagina 17 del Giorno. Una donna ha ricevuto 153 chiamate, ora l'azienda che le ha fatte dovrà riconoscerle $1.500 a chiamata. Fa un conto totale di $230.000. La signora fortunata, anche se si è sfrantumata i cosiddetti, se fosse un uomo, si chiama Araceli King di Irving in Texas, e ora almeno potrà godere di $230.000 per tutto lo stress e il nervoso che le hanno causato queste telefonate. Lo racconta Il Giorno a pagina 17. Ci fosse in Italia, magari. Capitolo vitalizi. Oggi, scrivono Il Fatto Quotidiano e Repubblica, si sapranno i primi nomi delle persone che perdono il vitalizio perché è subentrata la norma Camera e Senato che non si dà più vitalizio, secondo la quale non si dà più il vitalizio per chi ha subito una condanna passata in giudicato. I primi nomi però spuntano già sui giornali. Secondo Repubblica sono 8, sono Marcello Dell'Utri, che è attualmente in carcere, Silvio Berlusconi, ma si contano anche Vittorio Cecchi Gori, Pasquale Squitieri e poi Antonio Franco Girfatti, Vincenzo Inzerillo, Giorgio Moschetti e Franco Righetti. C'è però un ma che pesa su tutta la vicenda, come aveva rivelato anche il presidente del Senato Grasso in TV da Lilli Gruber. C'è questo grande ma, è la grana degli over 80, perché c'è una norma vecchia che risale al fascismo, secondo la quale se hai più di 80 anni il casellario giudiziario ti viene ripulito, anche se hai delle condanne. Per cui che succede? Che al Senato e alla Camera, se chiedono notizie al Dipartimento di Giustizia, al casellario giudiziario, a dire mi fate capire se questo senatore, questo deputato ha una condanna passata, se questa persona ha più di 80 anni non risulta questa condanna, il casellario giudiziario, pur se ha subito una condanna questa persona, risulta pulito. una vecchia legge che prevede questo. E quindi c'è il problema che di alcuni magari non si può sapere se hanno una condanna, o meglio ce l'hanno ma non risulta. E questo è un po' un inghippo che ci porta peraltro all'articolo, articolino che riguarda i vitalizi e che è quello che vince il premio Mani sul volante. Se siete alla guida, mi raccomando, è l'articolo che ci fa più incazzare della giornata ed è a pagina 13 del Corriere della Sera. Angela Pederiva, un piccolo articolino che riguarda un grande vitalizio di un ex assessore della Regione Veneto, ex consigliere regionale, ex consigliere regionale e ex assessore. Si tratta di Renato Chisso, che 400 giorni fa fu arrestato per lo scandalo Mose, che ha patteggiato, si trova anche attualmente in regime di detenzione domiciliare, ma scattati 60 anni ha chiesto e ottenuto l'assegno vitalizio da 80.000 euro l'anno e il trattamento di fine rapporti da ulteriori 70.000 euro lordi l'anno, no, 70.000 euro lordi una tantum da parte della Regione Veneto. Eccolo qui. La sentenza non è ancora definitiva e dunque scatta il vitalizio nonostante la condanna. Nel momento in cui il verdetto passasse in giudicato, potrebbe scattare una legge regionale che esclude il vitalizio per i condannati per delitti contro la pubblica amministrazione. Ma i dubbi interpretativi di questa legge non mancano e quindi forse otterrà comunque il vitalizio, perché le leggi in Italia si interpretano. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il climatizzatore dell'informazione. Climatizzatore, va bene tutto, caro ascoltatore di questi tempi, col caldo, va bene. Oh, c'è caldo, è estate, c'è caldo, notiziona. Allora, Berlusconi è stato condannato in primo grado al Tribunale di Napoli. Questa è la notizia politica sulla quale aprono alcuni giornali. Certo, c'è sempre la Grecia in realtà, però questa è la notizia politica del giorno per quel che riguarda l'Italia. Berlusconi condannato a 3 anni, pagò De Gregorio, risarcisca ora il Senato. Fulvio Buffi, a pagina 12 del Corriere della Sera, racconta come l'ex presidente del Consiglio sia stato condannato in primo grado a 3 anni di reclusione al processo che lo vedeva imputato per corruzione a Napoli per la compravendita dell'ex senatore Sergio De Gregorio, che durante il secondo governo Prodi, dunque stiamo parlando del 2008, passò dalle file del centro-sinistra a quelle del centro-destra. Condannato alla stessa pena di Berlusconi anche Walter Lavito, l'ex direttore del quotidiano Avanti, che in quell'operazione corruttiva era accusato di essere il mediatore. Tra l'altro Berlusconi è stato condannato all'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni e a pagare un risarcimento al Senato, un risarcimento che dovrà essere stabilito separatamente in procedimento civile. Ora, intanto, le reazioni. C'è da dire che è una condanna in primo grado e che il 6 novembre scatterà la prescrizione. Quindi per molti è un processo, come dire, che è già morto, nasce già morto e c'è la condanna di primo grado e ora ci sarà la prescrizione. Berlusconi reagisce molto duramente, fa un comunicato nel quale parla di complotto della magistratura. Non è certo la prima volta che lo evoca in 20 anni. Voglio non solo infangare la mia immagine non potendomi mettere in galera. Tra l'altro nel retroscena di Carmelo Lo Papa, pagina 2 di Repubblica, chi lo circonda racconta dello sdegno per un processo politico. Pensano di fermarmi così, dice Berlusconi? Stavolta non finisce come nel 2013. Io vado avanti, gli italiani sanno chi sono e quello che ho fatto. Per questa sentenza si sfoga, arrivata giusto in tempo per i telegiornali, ma soprattutto al culmine di quello che nel fortino berlusconiano viene vissuto come l'ennesimo accerchiamento. C'è anche la vicenda delle oggettine, dell'accusa di avere pagato 10 milioni per aver comprato il silenzio delle protagonisti delle cene eleganti, insomma l'ennesimo processo. Mentre Romano Prodi viene intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 3, dice: sarei ancora premier Senta, si sentivano solo delle gran voci allora, continue. Il problema è che non c'era nulla di preciso. Ma sarebbe cambiato qualcosa se lei avesse capito. Forse sarei ancora a Palazzo Chigi? Chiede Prodi. Ma insomma, 2008 sembra un po' esagerata questa risposta. Comunque questa è la risposta di Romano Prodi. Comunque aggiunge Prodi, senta, ripeto, si sentivano solo delle gran voci. Come fai a reagire? Si dicevano cose. Ma le ripeto quanto detto ai magistrati, quando uno non sa nulla di concreto, si può agire in qualche modo? Non si può. Insomma, era una situazione poco chiara, chiede Repubblica. Ma sì, nulla di indicativo sui nomi, solo un continuo bru bru bru. Così Romano Prodi. E poi dice, non capisco perché andrà in prescrizione il processo. Non sono un magistrato, ho sentito che c'è il rischio della prescrizione. Se devo dire la verità, non ho capito perché. Questo Romano Prodi, la reazione, mentre il giornale dice è l'ennesima attacco della magistratura. Paolo Bracalini racconta per esempio il cambio di casacca di 277 parlamentari negli ultimi anni, eppure nessuno indaga, e quindi dice la caduta del governo Prodi scambiata per un piano criminale, insomma cambiare partito è reato. In realtà il Tribunale di Napoli ha accertato, almeno in primo grado, che De Gregorio ha cambiato partito in cambio di milioni di euro, credo un paio. Comunque la condanna a Silvio Berlusconi in primo grado, questa è la notizia politica italiana del giorno. Mentre ovviamente tiene banco ancora la questione Atene, la questione Tsipras, ne parleremo alle 9.05 con Carlo Cottarelli del Fondo Monetario Internazionale. Intanto la notizia certamente è che, come scrive il Corriere della Sera, c'è un po' una differenza adesso tra Stati Uniti e Europa, perché il ministro del Tesoro americano Jack Lew ha chiesto che il debito della Grecia venga ristrutturato, quindi venga ridotto, venga rivisto. Il debito della Grecia è insostenibile. Questo è il pressing dell'America che invita l'Europa a dire tagliate il debito della Grecia. Giuseppe Sarcina lo racconta a pagina 3 del Corriere della Sera. Certo, questa è la sponda su cui gioca Tsipras, che ieri ha presentato il suo piano all'Europarlamento. Tra l'altro si raccoglie sul Corriere della Sera, pagina 6, con Marco Galluzzo, anche una frase un po' emblematica di Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea. Draghi, una situazione veramente difficile. Si racconta di come abbia preso un volo all'Italia da Francoforte a Roma per ritirarsi qualche giorno con la famiglia prima della decisione importante che deve prendere, cioè dare o meno nuova liquidità ad Atene. In questo volo, praticamente sempre in silenzio, Mario Draghi ha sfogliato il Wall Street Journal, ha letto un po' il Corriere, musica, cuffie, iPod, un pisolino, vabbè, insomma, un viaggio normale in aereo. E poi però alla fine, quando gli viene chiesto: Presidente, il dossier Grecia si chiude? Ecco che Mario Draghi sibila solo questa frase: non lo so, questa volta è veramente difficile. Così, così Mario Draghi. E se la Grecia si rivolgesse a Mosca, la voce resta flebile e Draghi l'accompagna con un sorriso e dice: ma no, non hanno soldi nemmeno loro. Questo riferito alla Russia da parte di Mario Draghi. Insomma, solo due frasi, ma da due frasi si costruisce anche un po' un articolo. Come una frase che viene attribuita a Renzi nel retroscena di Ugo Magri a pagina 7 della Stampa. Renzi pare che sia rimasto un po' infastidito da questo avvicinamento dei cosiddetti radical chic, o della sinistra al caviale, come la definisce, nei confronti di Tsipras. In questi giorni sono per Tsipras, tutti in festa per il referendum, avrebbe detto Renzi ai suoi, ma li voglio vedere tra tre mesi, quando il popolo greco dovrà scontare le conseguenze del no di domenica scorsa. Insomma, il premier, racconta la Stampa, pregusta il momento in cui prenderà la parola davanti al Parlamento per attaccare i critici e rivendicare a sé una missione più alta e impegnativa, che consiste nel cambiare l'asse della politica europea. Un Renzi che qualcuno dà in difficoltà sulla Grecia, che invece, secondo la Stampa, è pronto a ripartire. Vabbè, io sono rimasto impressionato da questa cifra, la cifra è questa: 3.000 miliardi di dollari. È quello che sono stato, è ciò che è stato bruciato sulle borse della Cina nell'ultimo mese, 3.000 miliardi di dollari, altro che Grecia. A proposito sulla Grecia, una domanda. Mauro Meazza, buongiorno, eccoci qua. Caro, buongiorno. È una domanda che arriva via SMS: ma se la Grecia esce dall'Europa, entra l'Inter? Beh, se non so perché voi. È Paolo fate... che chiede sì, queste. Sì, sì. Lo apprezzo molto, sì. Potrebbe... vediamo, facciamo una richiesta all'UEFA e vediamo. Cosa ha detto precisamente il governatore ieri? È difficile. È un dossier molto difficile. Ecco, allora prenderei a prestito le parole del governatore. 3.000 miliardi, Meazza, ma tu sai con quanti zeri si scrive 3.000 miliardi di dollari? Assolutamente no, no. Purtroppo aggiungo anche. Sì. No, tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore, proprio in pagina 2, c'è una pagina che mette un po' in fila i problemi globali, perché poi diventano problemi molto puntuali un po' per tutti, per i risparmiatori e per l'economia reale. La Cina, la Grecia, però c'è anche il problema della Russia e poi c'è il problema dei tassi degli statunitensi, una frenata cosiddetta, una frenata americana. Te lo racconta bene Moria Longo, l'articolo è lungo e dettagliato, non ti posso dare un riassunto, però sono quattro elementi di tensione sui mercati, specialmente adesso tiene banco la Cina. Ne parlavamo già ieri, caro Alessandro, è vero. E, insomma, per una buona, o insomma per uno spiraglio di buona notizia, vedi che forse sulla Grecia c'è una possibilità di accordo, servirebbero comunque una settantina di miliardi. Così. Tu come sei messo? Insomma, bisognerà, vado in Cina. Bisognerà ben trovarli questi 70 miliardi, comunque servirebbe una settantina di miliardi per un accordo, lo riferiamo, lo spieghiamo appunto insieme alla proposta che attendiamo nei dettagli questa sera, tra stasera e domattina, insomma, da Atene, per trovare un punto di intesa, e speriamo che così avvenga. Oh, però ti voglio parlare di un'altra questione europea che diciamo non ha tutta questa notorietà: la polvere di latte. Ah. Perché tu leggi distrattamente le pagine di Imprese Territori, ammettilo. al mattino arrivi, ma le leggi distrattamente. Invece leggile, perché sai, l'Europa ammette l'utilizzo della polvere di latte anche per fare mozzarelle, per fare formaggi, ecco. E questa cosa non è tanto bella, specialmente per noi, per il nostro settore lattiero caseario, quindi c'è una vibrata, come si diceva una volta, protesta per questo utilizzo. Ma se leggi le pagine di Imprese Territori scoprirai molte cose interessanti. Poi naturalmente oggi non ti perdere Casa 24, poi no. Lì le compravendite di case ci hanno confermato che non vanno così veloce, non riprendono insomma come avremmo voluto. Invece è andata bene, ancora ti leggo dalle pagine di Imprese Territori, ti segnalo, è andato bene l'annata dei robot, delle macchine utensili. Questo è un segnale positivo, una notizia da dita incrociate. Non positivo che i controlli e i rimborsi fiscali vanno a rilento per la questione dei dirigenti, caro Alessandro. Qui comincia a vedersi un po' l'effetto di questa sentenza della Corte Costituzionale e soprattutto della non reazione, insomma della mancata soluzione. Finora siamo in questa situazione. E allora ti spieghiamo naturalmente in norme e tributi qual è al momento la situazione. Hai mica spostato i 2 euro a Hong Kong? No. Siamo sicuri? No. Perché se l'hai fatto, hai fatto male, perché guarda che Hong Kong adesso entra nella cosiddetta white list, cioè diventa paese con scambio di informazioni, e allora non ti conviene, spostali anche da Hong Kong. Non potresti darli direttamente ad Atene, che così facciamo, chiudiamo il cerchio? Una piccola parte della partita. Va bene, in ultimo, ma non per questo meno importante, 2 cose. Un tribunale locale ha ammesso che si può concedere da parte dell'INPS il DURC anche se il pagamento dei contributi era solo parziale. È accaduto, lo riferiamo nelle pagine norme tributi. E poi, visto il periodo, una vacanza trascorsa con l'ex coniuge non per questo porta al ripensamento, all'annullamento del percorso di separazione e divorzio. Così è stato precisato porta appunto in tribunale, ma lo riferiamo naturalmente in norme e tributi. Ora tu sei prossimo alle vacanze, però mi sembra che tu sia in questa condizione. Anche tu. Questo lo vedremo più avanti. Lo vedremo più avanti, quindi a questo punto ci salutiamo invece con l'abituale grido. Traffico! Alessandro Mila, il gattino attaccato ai maroni dell'informazione. Non male, il gattino attaccato ai maroni dell'informazione, come ci ha raccontato il nostro grandissimo Alberto Forchielli della Grecia. Questa è l'immagine che ce l'abbiamo l'audio di Forchielli, come definisce lui la Grecia, eh? Facciamolo sentire il nostro Alberto Forchielli. Ce l'abbiamo lì pronto? Chi lo sa? Ma il gattino attaccato ai maroni, la Grecia, eccolo qua, sentite. Non ne usciamo più, la Grecia è un gattino attaccato ai maroni, diamogli da mangiare, diamogli un po' di benzina, capito? Evitiamo la catastrofe umanitaria, condoniamogli gran parte del debito, ma che sia morta lì. Vabbè. È un gattino aggrappato ai maroni. C'è un'immagine più efficace di questa, anche se un po' brutale, per capire di che si tratta? Allora, tra l'altro, 0246524492 è la nostra segreteria, per le vostre sigle. Due o tre notizie che riguardano le vacanze, se vogliamo così dire. Allora, prima di Libero c'è la solita inchiesta ogni anno che riguarda il prezzo dei traghetti per andare in Sardegna. Misca Ruggeri racconta la Sardegna sequestrata dal monopolio dei traghetti. Poi ci lamentiamo se i turisti italiani e stranieri vanno in Spagna o in Croazia. Se una famiglia sceglie Maiorca, le Canarie, Var, rinunciando alle splendide spiagge di Portocervo, al tonno di Carloforte, alle acque smeraldo di Caprera e Budelli. Di motivi ce ne sono, non uno, ma 1360. Questa è la cifra media che un povero pater familias deve tirar fuori soltanto per portare l'auto, la moglie e due figli da Genova a Porto Torres. Ed eccoli qui gli esperimenti. Facciamo qualche esperimento online per prenotare un viaggio con Mobi, la compagnia Mobi, due adulti, due bambini, partendo da Genova per Olbia l'8 agosto, tornando il 16, cabina quadrupla esterna, una macchina lunga da 401 a 5 metri, sborsano 1.193,84 euro. Se ti imbarchi da Civitavecchia cambia poco, andata 1 agosto, ritorno sabato 15, 980 euro. Provare allora con Tirrenia, per carità, da Genova a Porto Torres con una Ford, il salasso di 1.272,54 euro. Insomma, che salasso andare in Sardegna e la gente poi non ci va. A proposito di vacanze, Il Giorno invece dice che c'è l'ennesima tirata contro i venditori abusivi sulle spiagge. Ogni anno è così e poi ogni anno si ripresentano. Scatta l'operazione Spiagge Sicure, Alfano, via gli ambulanti abusivi. In realtà poi rimane tutto uguale. Il ministro scrive ai prefetti: i turisti sono assediati, rafforzate la prevenzione, ma chissà poi che succederà. Mentre segnalo due pagine, non c'è tempo di leggerle, ma due pagine molto efficaci di Francesco Merlo su Repubblica, pagina 24 e 25, sullo scandalo ormai diventato a Fiumicino nell'aeroporto dei veleni che tiene l'Italia col fiato sospeso. Mancano pochi giorni al verdetto del procuratore di Civitavecchia, che è chiamato a decidere se i livelli di diossina sprigionati dal rogo dello scorso maggio a Fiumicino siano tollerabili o no. E quindi in questo viaggio che fa Merlo nello scalo diventato la metafora delle tante impasse di Roma e del paese, uno scalo in cui passano 40 milioni di passeggeri l'anno, c'è da capire se parte di Fiumicino potrà essere chiuso o se potrà essere riaperto. E se rimane chiuso, l'impatto, potete immaginare, è devastante anche dal punto di vista dell'impatto economico, non del turismo, della mobilità proprio degli italiani e degli stranieri. Ripeto, 40 milioni di passeggeri al giorno, all'anno passano per Fiumicino. Va bene, sapete che il secolo XIX dice che Briatore sta per aprire un nuovo Twiga in Liguria, dove non è dato a sapere, ma il secolo XIX mette la notizia in prima pagina. Briatore, un Twiga per la Liguria, locale con annessi albergo SPA in una località top secret. questo è Briatore, questo vuol fare Briatore sul secolo XIX, viene raccontato. Ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Ricordate, lo dico anche per gli amici di Periscope che ci guardano in diretta, è sul Fatto Quotidiano: lasciarsi un giorno via app. Arrivano le app non solo per conoscersi, non solo per unirsi, ma anche per lasciarsi con un sorry, it's over, è finita. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che te bozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qui, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Quando sono le 8:20 minuti in punto, andremo in onda fino alle 9:30 e vogliamo parlare, allora, di che cosa intanto? C'è un mondo, quello della scuola, dove pare ci sia un abuso della legge 104. Ho premesso, la legge 104 è una legge sacrosanta, è quella che permette ai lavoratori di assistere a un parente bisognoso, no? Che ha bisogno di cure, di assistenza, e quindi dà diritto a 3 giorni di permessi al mese, 3 giorni di permessi dal lavoro. Solo che pare che nel mondo della scuola non vengano utilizzati sempre in modo corretto. Allora, qualche mese fa era finita sui giornali la vicenda di una professoressa siciliana che, secondo l'accusa, durante i 3 giorni di premessi della legge 104 è andata in realtà ad Amsterdam a partecipare a una competizione di tango, il ballo, no? Il tango. La notizia che è finita ieri sui giornali è che questa stessa professoressa è stata prosciolta perché? Beh, intanto perché l'iniziale accusa di truffa è stata derubricata in un'accusa meno grave, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. E siccome bisogna avere percepito almeno 4.000 euro più o meno per essere processabile, lei ne ha indebitamente incassati solo 400, dunque il giudice l'ha prosciolto. Io saluto l'avvocato Claudio Gallina Montana, che difende la professoressa. Buongiorno avvocato e grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno a lei, buongiorno. È andata così, insomma, intanto la sua assistita è stata prosciolta e questa per lei sarà una buona notizia. Però capisce che insomma il fatto c'è, no? Ma guardi, la procura non è entrata, per la verità, nel merito della vicenda. Ha ritenuto già dalle prime informazioni che è stato un reato per cui c'è una soglia di punibilità, che, come ha detto lei, di 4.000 euro. La cifra lo superava ampiamente, quindi ha disposto l'archiviazione. Archiviato. Per la verità, la professoressa non è mai stata sentita nemmeno dal pubblico ministero. Sì. Si è una causa pendente parallela a quella avanti al giudice del lavoro, dove dimostrerà il suo avvocato civilista di non aver fatto nulla di male. Sì, ma insomma, ci sono le foto c'erano le foto, mi pare, su Facebook. Sì, vabbè, ma il fatto che la sera vada a ballare il tango non vuol dire che abbia violato la legge 104, quanto abbia abusato di questa legge. Almeno per quello che io so che mi ha detto, è che lei sì, ha preso degli appuntamenti con dei medici, ci sono certificati medici, per cui pomeriggio è andata consultare questi professionisti, poi la sera è libera. Insomma, ma allora questa vicenda che è finita sui giornali cos'è? È un accanimento nei confronti della sua assistita? Perché guardi che appare un po' invece come la posta ai giornali, come dire, si è salvata perché è stato derubricato il reato, è stato considerato meno grave, ma no, non è che è stato considerato meno grave. La condotta che ha posto in essere rientrava in questa fattispecie criminosa. Sì. E chiaramente, essendoci una soglia di punibilità, non poteva procedere. E perché non truffa? Perché invece non la truffa è stata contestata? Guardi, la differenza è sottile. La truffa comporta un quid pluris, un qualcosa in più che tende a dare un raggiro, un raggiro che tende a far cadere in errore l'amministrazione. Questa è una dichiarazione di scienza, è un falso ideologico, o semplicemente nella presentazione della richiesta, cioè, Poi la richiesta chiaramente viene utilizzata per altri motivi, questo è un altro problema. Ma intanto la semplice presentazione di un documento falso, che però non abbia una falsità materiale, quindi non c'è quel plus in più, sì, integra gli articoli 316 ter. E vabbè, fa decadere la truffa. Diciamo, è stato considerato un danno lieve per lo Stato, quello della sua assistita, 400 euro. È stato questo reato, in ogni caso, poiché la cifra era di 400, era al di sotto dei 4.000 previsti come, come sono le punibilità. Quindi non si è proceduto. No, certo, però voglio dire, capisce che è diverso se avessero detto no, abbiamo accertato che non ha fatto nulla, è tutto a posto, non è proprio la stessa cosa. Sì, però come le ho detto, la professoressa non è mai stata sentita dal pubblico ministero, ha una tanta documentazione, poiché si è interrotta l'indagine una volta che si è intuito si trattava di una condotta non punibile e si è chiusa l'indagine penale. C'è un procedimento civile infatti davanti al tribunale, e su questo esattamente su questo poi chiaramente si dipenderà, cioè, perché parliamoci chiaro, rischia qualcosa, rischia anche il licenziamento questa persona? Chiaramente è stata sospesa in attesa si faccia chiarezza sulla vicenda. È stata il sospesa. Punto è che lei doveva andare ad Amsterdam, a Madrid, quello dove si tratta di quattro permessi, no? Sì. No, piccolissima, e dove ha avuto degli incontri con alcuni medici, proprio come per il suo padre, che è un invalido civile, quindi e poi faceva anche un po' di tango. Ha unito, ha preferito partire, ecco, incontrare questi medici quando aveva pure delle questioni personali. È inutile fare spese due volte, andarci. Diciamo, ha unito l'utile al dilettevole. All'utile al dilettevole, ecco, diciamo così. Avvocato, le voglio presentare il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Buongiorno, sottosegretario, eccoci qui. Buongiorno a voi. Perché io ricordo che di recente, qualche mese fa, voi al Ministero avete messo in piedi tutta una serie di controlli per cercare di capire, e regione per regione non è uguale, insomma, questa storia, al di là della vicenda in sé di questa professoressa, sottosegretario Faraone, c'è un abuso della legge 104 nel mondo della scuola? Sicuramente sì, c'è un abuso della legge 104 nel mondo della scuola. C'è un utilizzo distorto che fa sì che insegnanti che invece hanno realmente bisogno di poter usufruire della 104 non possono farlo. Io ricordo che il tema non è soltanto i 3 giorni di permesso al mese, ma è anche la possibilità di poter operare e lavorare vicino, cioè, certo, a casa. Chiedere il trasferimento. Quindi a me è capitato di incontrare decine e decine di insegnanti con bambini o ragazze autistici o comunque disabili, costretti a dover scegliere fare il lavoro e stare con i propri figli, e questo è un fatto che è drammatico, quando c'è invece qualcuno che utilizza questo strumento, avete fatto bene a dire che è uno strumento di civiltà che va conservato, per farsi i fatti suoi. E se lo fanno insegnanti, che devono anche insegnare e costruire coscienza civica fra i ragazzi, è ancora più grave. Senta, ci sono delle regioni, so che avete fatto un monitoraggio, ci sono regioni dove questo problema è più ampio rispetto a regioni dove invece è ridotto? Ma regioni, ma anche province, nel senso, e non è nemmeno distribuito come si potrebbe immaginare da un punto di vista geografico fra nord e sud, è abbastanza distribuito. Sicuramente ci sono dei casi patologici, ad esempio nella provincia di Agrigento, dove si è avviata un'indagine da parte della magistratura. È una provincia in cui ci sono dati veramente anomali. Ce ne siamo occupati, abbiamo avuto ospite di recente anche il procuratore, che effettivamente ha aperto un'inchiesta lì per capire. Sì, ma perché lì, io al di là di questo caso specifico dell'insegnante che è stata sospesa prontamente al MIUR in quanto c'era questa indagine, noi come MIUR, per quello che compete alla nostra responsabilità, cercheremo di individuare, di punire con tutti gli strumenti che abbiamo tutti i furbetti della 104. Sì. È chiaro che un ruolo spetta anche all'INPS e come vengono date queste 104, e un altro ruolo spetta alla magistratura, e quando ci sono le denunce si perseguono in maniera positiva. Quindi credo che il tema non è mettere in discussione la legge, anche no, se no, ma qualcosa che funzioni, potrebbe essere che... cambiata, ma farla funzionare bene con controlli precisi e duri. Avvocato, però la sua assistita ora però è un procedimento, quello che non riguarda lei, quello in cui rischia il posto di lavoro, mi sembra di capire, perché non l'assiste lei in questo caso? No, civilmente non l'assisto io. Me lo dica sinceramente, cioè, voglio dire, non ha nulla da rimproverarsi questa professoressa, cioè a dire non ho fatto nulla di male, davvero, oppure è stata... Guardi, la legge 104 prevede anche che un parente possa andare da solo senza il suo parente, diciamo, assistito, per delle informazioni cliniche. Questo è quello che si è verificato. Forse l'unica avrebbe dovuto comunicarla all'INPS, cosa che invece questo non ha fatto. Questo forse è l'unico punto. Però poi come è andata veramente, dico, io non lo so. Chiaramente lei dice che ha una serie di certificazioni mediche che chiaramente comprovano la presenza presso gli studi medici in quei giorni, proprio per il genitore. Cioè che è andata, che c'erano dei medici, c'erano dei medici che doveva vedere ad Amsterdam, dove casualmente c'era anche questa gara. Ma dovrei sottoposto a una particolare operazione molto delicata, è andata con sede neurochirurgica. Non è una questione, padre ha una malattia piuttosto grave, quindi si è andata a consultare fuori. Questa legge lo consente e questo ha fatto. Poi, evidentemente, questo è quello che mi dicono le carte che mi ha fatto vedere. Poi accerterà il giudice. Questo sicuramente. Sottosegretario, dovesse accertarsi che una persona, non stiamo parlando di questo caso, che una persona abusa della legge 104, lei sarebbe per il licenziamento in tronco, oppure essendo dipendente pubblico, insegnante, faraone? Assolutamente sì, perché è un doppio tradimento rispetto all'utilizzo di una legge che deve essere mantenuta perché utile per coloro che devono assistere parenti o vicini che stanno male, e quando qualcuno lo utilizza in maniera distorta sottrae la possibilità ad altri di soffrire di questo diritto, per cui è un doppio torto ed è giusto che sia licenziato il troppo. Ma voi quando fate questo monitoraggio, che mi risulta essere abbastanza concluso, cioè che tipo di conclusioni e che tipo di soluzioni potete poi apportare su questa vicenda della legge 104? Cioè laddove capite che ci sono dei numeri di presunti abusi maggiori in alcune zone rispetto ad altre, che potete fare? Andate dalla magistratura oppure che altro fare? Innanzitutto, prima di qualche tempo fa, di questo monitoraggio, diciamo, non c'era un monitoraggio al MIUR sulla 104 ed è incredibile. Quindi ora esiste finalmente un database in cui uno sa chi ha chiesto la 104 e se gli è stata assegnata e per quale motivo. Questa dopo... è una conquista. Due, stiamo costruendo, abbiamo fatto un tavolo con l'INPS e con diciamo le forze dell'ordine, che è quello a cui facevo riferimento poco fa, in modo da costruire una task force sugli interventi a 104, quindi monitoraggio, denuncia e intervento, e su questo bisogna agire. Quindi il MIUR d'ora in avanti, io credo che sia accaduto sempre, ma ora ancora con più determinazione, ogni volta che emergerà un caso di questo genere lo denuncerà alle forze dell'ordine, verificherà con l'INPS la veridicità della documentazione presentata per chiedere la 104. Insomma, stanare i furbetti, cercare di stanare i furbetti. Sì, allora, sottosegretario, per concludere, ho due domande invece sull'attualità. Oggi c'è l'approvazione definitiva della riforma sulla scuola, vi aspettate sorprese? No, i numeri alla Camera mi sembra che ci sono. Insomma, come risponde alle accuse di fascismo che vi arrivano? Ogni riforma che abbiamo fatto in questa legislatura ci hanno accusato di essere fascisti, dalle riforme del mercato del lavoro a quella della scuola a quella elettorale. Noi stiamo semplicemente cambiando il paese, c'è chi può condividere, chi no, ma noi vogliamo cambiare il paese e dichiararlo. Il fascismo, diciamo, è un'altra roba che non c'entra nulla con la nostra storia. E invece c'è una data che questa non è stata rispettata, va detto il 30 giugno, doveva esserci questa anagrafe dell'edilizia scolastica. So che il presidente Renzi, come tutto il governo, ci tiene molto alla questione degli edifici scolastici. C'è questa anagrafe? Non è vero che non è stato rispettato, noi avevamo il 30 giugno, era la scadenza per tutte le regioni presentare se questa anagrafe la fanno le singole regioni. È stata il 30 giugno devono presentare i dati dell'anagrafe. L'hanno fatto tutte? L'hanno fatto tutte, stiamo vedendo le regioni ritardatarie, l'hanno fatto entro il 30, stiamo verificando se hanno effettivamente presentato tutto quello che c'è da presentare, ma comunque sia. o qualunque cosa hanno presentato, e se ci dovessero essere anche delle regioni ritardatarie, noi per tutti i dati che avremo di tutte le regioni che ci hanno presentato i dati le comunicheremo alla cittadinanza. Quando? Al più presto. Ma stiamo semplicemente, abbiamo ricevuto i dati e in questo giorno li stiamo elaborando, li stiamo diciamo sistemando anche da un punto di vista informatico, dove che saremo pronti. Io credo che entro il mese di luglio questa partita si chiude. Entro il mese di luglio. Faraone, io la ringrazio, ma è vero che l'ha bocciata Renzi? No, ma questa cosa però gliela devo chiedere, perché è stato rimandato nei talk show. Deve studiare quest'estate lei, perché a settembre si deve presentare. Infatti questa trasmissione mi serve per prepararmi. Ringrazio per il ruolo sociale che sta facendo. Esatto, facciamo un po' di trasmissioni radio in modo che lei può fare le ripetizioni, si può presentare in TV anche, perché Renzi pare la voglia rimandare per i talk show. Ma no, vedremo, dai, la rivedremo a settembre anche in TV. Stia sereno. La dico così, stia sereno. La ringrazio, Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, così come ringrazio l'avvocato Claudio Gallina Montana. Andiamo in pubblicità, poi parliamo di, beh, ricordate un'altra vicenda che vogliamo, della quale vogliamo riannodare un po' i fili. Le persone, donne rom che sono state arrestate con 350 precedenti perché fanno i furti, i borseggi in metropolitana, a Milano sono state pescate perché fanno i borseggi tra l'altro con i bambini al seguito, in modo da non essere punibili. Ora il governo sta studiando di alzare la soglia minima di punibilità per i reati come furti, scippi a 3 anni, e questo potrebbe portare a delle modifiche. Avremo ospite Fabio Roia, magistrato, che ci spiegherà tutto tra poco. Eccoci qui, sono le 8:40 minuti, cari ascoltatori. Il numero per intervenire in diretta 800 24 00 24. Allora, abbiamo già raccontato in passato, nei giorni scorsi, la vicenda del gruppo di donne che vengono arrestate periodicamente, così definite le mamme borseggiatrici di Milano. Sono in genere con figli a fare rapine, furti di portafogli in metropolitana. Sono un gruppo di donne rom, alcune con 49 denunce, un'altra con 24 denunce ma 5 figli, una con 68 denunce, 23 anni, 4 figli, una con 27 denunce, 7 arresti e 3 figli. E ci si chiede, ci si è sempre chiesti, come mai queste persone, queste donne, ogni volta fermate durante i borseggi non vadano in carcere. Ci aveva spiegato un magistrato la scorsa settimana che se la punibilità del reato, se la pena minimo per il reato contestato non è di almeno 3 anni, non possono essere mandate in carcere. Vorrei chiedere lumi a un altro magistrato, è Fabio Roia del Tribunale di Milano. Buongiorno, dottor Roia. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Come sta? Bene. Allora, bene, sono grazie. Le classiche notizie queste che sconcertano un po' l'uomo della strada, che, come dico sempre, è ignorante, io per primo, in materia di tecnicismi della legge, no? Allora, intanto abbiamo letto che il governo vuole alzare la pena minima proprio per i reati, quelli che creano maggiore allarme sociale, il furto, il borseggio, gli scippi, le rapine in casa, a 3 anni. Questo potrebbe aiutare a dare una risposta? Sì, dunque dobbiamo distinguere da reato a reato. Adesso sì, io non voglio entrare nel tecnicismo perché altrimenti gli ascoltatori non mi comprendono. Allora, dobbiamo distinguere: il borseggio è un furto, diciamo, con destrezza, non c'è violenza alla persona. Se c'è violenza alla persona, la rapina, che è un'altra vicenda, è un reato più grave, normalmente le persone vengono detenute in carcere se ci sono esigenze cautelari. Quindi l'innalzamento dei tetti minimi va bene, perché consente di arrestare alle forze di polizia e di applicare delle misure, però per certi tipi di reati, che sono il furto con strappo, lo scippo, tanto per capirci, sì, il furto in abitazione e la rapina, le pene oggi sono già adeguate e consentono l'adozione di misure incisive. In questo caso però è appunto il borseggio. Infatti queste donne sono abili nel, come dire, avvicinare le persone che stanno entrando in metropolitana, certo, sui treni, per sfilare i portafogli, no? Il classico furto con destrezza, per l'appunto. Esattamente. In questi casi il reato attualmente quanto prevede? Il reato dipende se è tentato e consumato. Per poter adottare una misura deve essere, normalmente sono tutti tentati, no? Perché le forze di polizia hanno dei servizi per cui osservano la persona, la seguono magari in metropolitana mentre sta compiendo il gesto e poi intervengono o prima o subito dopo la sottrazione del portafoglio. In questo caso quindi è sempre un reato tentato. Se non ci sono almeno due aggravanti non si possono disporre misure cautelari in carcere. Ma soprattutto il problema che diceva lei riguarda il fatto che queste persone in maniera preordinata vanno a commettere questi reati o in stato interessante o con dei figli, certificando la presenza di figli che devono avere almeno meno di 6 anni. Però, perché... ecco, questo è importante, dottor Roia, perché lei dice non le pene non consentono che vengano messe, sì, che vengano messe in carcere. Per cui cosa succede? Che la polizia le ferma e poi non viene convalidato l'arresto? Cioè vengono... No, l'arresto viene convalidato, ma vengono date misure che non sono obiettivamente adeguate, perché per esempio viene dato, non so, il divieto di dimora visto in talune città metropolitane, sì, o l'obbligo di firma, poi magari sono persone senza fissa dimora, quindi non si può dare gli arresti domiciliari. Sono misure che all'opinione pubblica appaiono inadeguate, ma qui c'è una norma di carattere generale che dice, fra l'altro voglio dire che il problema della custodia cautelare in carcere è stato recentemente aggravato sotto il profilo della loro applicazione per il noto problema del sovraffollamento delle carceri, quindi sì, quando il legislatore dice ma questo è un po' un ping pong che accade da molti anni, è colpa della magistratura che scarcera, dice una cosa non vera, perché il tetto massimo è stato portato a 5 anni e quindi in taluni casi, per esempio il piccolo spaccio, che è un altro reato molto odioso, non consente l'adozione di misure cautelari in carcere. Comunque il problema della donna incinta, la norma dice che può essere applicata la custodia cautelare in carcere quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Per esempio, c'è un giudice che in questo caso fermate queste donne le ha messe in carcere perché ha contestato anche la strumentalizzazione, certo, della gravidanza per commettere più agevolmente reati. Quindi in realtà c'è sempre un modo per... Sì, guardi, io personalmente adesso scenderò, finita questa conversazione, a fare gli arresti di questa notte, ma in situazioni di questo tipo io, siccome c'è una preordinazione, siccome c'è un'organizzazione, siccome anche c'è l'utilizzazione di bambini che molte volte vengono portati sul luogo di delitto, sul luogo del delitto, io ritengo, ovviamente se la persona ha una serie di precedenti, che possa essere applicata la custodia cautelare in carcere. E quindi dipende un po' dalla discrezionalità del giudice basata sul singolo caso. Voglio dire, l'applicazione della legge non è una cosa meccanica, perché altrimenti metteremmo un bellissimo programma informatico e avremmo risolto tutti i problemi. C'è sempre una valutazione ponderale dell'uomo, del giudice, che però si basa anche sulla analisi del caso concreto. Quindi nel caso di cronaca di cui si è fatto cenno, di queste madri che si organizzano e appositamente vanno, secondo me ci potrebbero essere quelle eccezionali esigenze cautelari per mantenere la custodia in carcere. Come in alcuni casi c'è stato. Certo, c'è da dire che quando uno legge 22 arresti, alcune 7 arresti, 24 denunce e 25 arresti, cioè non esiste anche la questione di cumulo di arresti che in qualche modo porta a rendere più grave la situazione di una persona? No, come si fa a accumulare 25 arresti e tutte le volte viene messo... No, certamente questo viene valutato sotto il profilo della personalità. È vero che magari tutti questi 25 arresti non saranno poi condanne definitive, però anche il precedente di polizia, cosiddetto giudiziario, deve e può essere valutato per l'applicazione della misura, e quindi per valutare se una persona è dedita in maniera sistematica a questo tipo di reati o no. Certamente questo è un dato che viene valutato. Dottor Roia, che dobbiamo aspettare? Cioè, dal punto di vista politico, ovviamente l'iter per eventualmente aumentare la soglia minima di pena a 3 anni è un iter, come al solito, un po' complicato. Ci vorrà che cosa? Si può fare un decreto, secondo lei, governativo per questione di urgenza, o ci vuole un iter parlamentare che allora campa a cavallo? Ma io sono sempre contrario a introdurre norme penali di inasprimento sia nell'ambito della procedura sia di diritto sostanziale col decreto legge, perché è uno strumento che i nostri padri ci insegnano consideravano non adeguato. Però devo dire che la legislazione è, secondo me, è sufficiente, tranne taluni casi. Ovviamente il governo deve fare delle scelte molto nette, cioè sì, o dice: guardate, la custodia cautelare in carcere è un'estrema ratio, per cui per il problema del sovraffollamento si deve applicare solo in determinati casi, fa anche un'opera di spiegamento e di rassicurazione, giustamente, ai cittadini di questo tipo di intervento di politica giudiziaria, oppure mi sembra, come dire, non molto corretto da un punto di vista istituzionale poi dire sono i magistrati che non applicano una legge che non consente di essere applicata. Questo sì, magari bisogna togliere dalle carceri molti che sono in attesa di giudizio, non si sa come andranno, e mettere più persone che fanno anche reati che, ripeto, saranno anche minimi, ma se uno subisce un furto o uno scippo, cioè è un qualcosa che veramente poi scuote la persona e mina la sicurezza, la percezione di sicurezza che la gente ha delle città. Quando poi ci sono contatti con la persona, addirittura furti in abitazioni, io ritengo fra i reati più odiosi che esistano. Appunto. Allora, intanto la ringrazio per essere stato con noi, come sempre molto chiaro, Fabio Roia, grazie, magistrato della sezione penale del Tribunale di Milano. Su questo ci sono ascoltatori, sono da voi, dopo il traffico però. Sono le 8:49 minuti, qui a Radio 24, questo è 24 Mattino, e vorrei ascoltare Andrea che ci chiama da Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno Milan, complimenti per la trasmissione. Una domanda molto, molto semplice, forse non si adatta al 100% al caso che discutete, ma la domanda è: alle famiglie italiane, ci sono stati casi finiti a Striscia la Notizia sui giornali, vengono tolti dei figli e dati in affido ai servizi sociali per motivi che possono essere considerati seri, come non ne viene garantita l'istruzione, non ne viene garantita l'igiene, eccetera, eccetera. Qui ci sono dei genitori rom, ma che diciamo tutti essere cittadini italiani in molti casi, vengono portati a commettere dei furti ai servizi sociali, i figli di queste persone non vengono tolte dalle famiglie, non vengono dati ai servizi sociali? Guardi, è un tema effettivamente che c'è tutto, è una domanda legittima, è una domanda assolutamente legittima la sua, Andrea. A volte, come ci spiegava il magistrato Roia, l'applicazione della legge sfugge a delle logiche che chi non conosce i meccanismi della legge può fatica a capire, parliamoci chiaro. Fatica veramente a capire, come mi scrive un ascoltatore via sms, dice: se io blocco dei rapinatori che vi trovo in casa, rischio anche la denuncia per sequestro di persona. Adesso poi dopo anche lì bisogna poi trovare sempre il magistrato che arriva a contestare il sequestro di persona a una persona che blocca dei ladri in casa. Non lo so, ci vuole sempre, come dire, anche poi la persona che arriva a commettere una pazzia di questo genere, mi verrebbe da dire. Vorrei sentire però sul tema anche che abbiamo affrontato all'inizio della legge 104 Giovannino da Bergamo, almeno mi dicono che chiama per quel tema lì. Buongiorno Giovannino. Buongiorno, buongiorno. Niente, il mio più che altro è una sorta anche di sfogo per il fatto di non poter tutelare come rappresentante comunque della pubblica amministrazione gli interessi della pubblica amministrazione. Perché lei che fa nella pubblica amministrazione? Io sono un segretario comunale, ho avuto tanti comuni e quindi tanti dipendenti che fruiscono della 104 per l'assistenza che Cosa ha notato? Che in genere gli italiani si comportano bene oppure fanno i furbetti? No, è tutto il contrario, che praticamente può anche essere che faccio un esempio molto banale, all'inizio di un intervento, un genitore, viene rilasciata l'autorizzazione per la 104, questa autorizzazione dura 4-5 anni, passato il primo anno, il soggetto che aveva bisogno dell'assistenza oramai è autonomo, non ha più bisogno di nulla, la persona continua per altri 5 anni a fruire di questi 3 giorni mensilmente. E si fa i fatti suoi. Cioè lei, Giovannino, dal punto di vista del segretario comunale, osserva che in generale, ma in che percentuale vede le furberie, ha visto le furberie? Al 99,9%, perché arrivo a capire, a vedere anche altre situazioni, cioè solitamente i figli assistono i genitori anziani, arrivo al caso di dipendenti liberi professionisti, scusi, che possono essere ingegneri, architetti, avvocati, eccetera, che assistono i nonni e poi ne assistono anche fino anche due, o anche 4 per arrivare, voglio dire, ad avere accumulare 12 6 giorni. Arriviamo a delle cose, si vedono nella pubblica amministrazione delle cose assurde. Ma guardi, Giovannino, no, ma si fermi qui perché devo dare spazio anche a Alfonso da Milano. Ma siamo sempre le solite considerazioni, siamo sempre pronti a lamentarci, a dire il prossimo, a puntare il dito. Ma poi Giovannino ci dice: io l'ho visto da segretario comunale, nel 99% dei casi, 0,9 addirittura, gli italiani fanno i furbetti. Ma siamo sempre lì, noi puntiamo il dito sugli altri, ma poi appena possiamo fottiamo il prossimo, appena possiamo fottiamo il prossimo. Questo è il problema antropologico degli italiani. Alfonso da Milano, buongiorno. Alfonso, niente, fottiamo il prossimo, mi ha fottuto lui, ha messo giù il telefono. Va bene, dai. Allora, la nostra segreteria telefonica 02 46 52 4492, ma potete trovarla, se non riuscite a scrivere, anche sul nostro sito radio24.it, tutti i dettagli della segreteria. La vogliamo ascoltare? Alessandro, sono tranviere di Roma. Se volete fare formazione corretta, andate a informare veramente, no, che c'è ragione Marino, perché sta protesta dei macchinisti, che non è una protesta, è neanche uno sciopero bianco, è un'applicazione del regolamento. Se un macchinista non va a lavorare, se non sta fermo in stazione, quindi si vede, non c'è bisogno del badge. Pensi veramente che sia il badge il problema? Caro Milan, ho sentito i guai della metropolitana di Roma. Il problema di fondo in tutta Italia è che finché la parola licenziamento nel settore pubblico è un tabù, i servizi non potranno mai migliorare. Milan, io non so voi giornalisti che storia state raccontando sulla Grecia, ma la Grecia è fallita. Lunedì mattina la Grecia porta, se fosse un'azienda, i libri in tribunale. Basta con Bonanno e Salvini che continuano a sblatarare sull'euro, che non va bene l'euro, e loro si prendono 15.000 euro al mese. Se tanto gli fa schifo l'Europa, che escano da quel Parlamento dove non fanno nulla. In questa maniera almeno hanno diritto di brontolare sul Parlamento europeo. Questo è il nostro popolo, una parte del nostro popolo. 02 46 52 4492. Io vi ricordo che se andate sul sito radio24.it, anche nella nostra sezione 24 mattino, ritrovate tutto, le proposte, le sigle. Noi andiamo avanti fino alle 9.30 intanto, parleremo di Grecia, avremo ospite Carlo Cottarelli, ve lo ricorderete come mani di forbice, quello del commissario della Spending Review. È tornato ora al Fondo Monetario Internazionale, dunque un punto di osservazione molto interessante. Parleremo di Grecia, com'è che ha detto Forchielli, ce l'abbiamo ancora, Alberto Forchielli, il nostro Alberto Forchielli, come vede lui la Grecia, com'è che la vede? Non ne usciamo più, la Grecia è un gattino attaccato ai maroni, diamogli da mangiare, diamogli un po' di benzina, capito? Evitiamo la catastrofe umanitaria, condoniamogli gran parte del debito, ma che sia morta lì, capito? Che sia morta lì, condoniamogli il debito, ma che sia morta lì, perché la Grecia è un gattino attaccato ai maroni. Questo dice Alberto Forchielli. Partiremo magari non da qui, ma da questioni più importanti con Carlo Cottarelli dopo il giornale radio delle 9. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore con Salvatore Padula. Sono giornate complicate, diciamo così, per i mercati finanziari, tante incognite diverse tra loro, però intrecciate l'una all'altra. C'è ovviamente la questione greca, ma si fanno sempre più sentire le preoccupazioni per il crollo della borsa cinese. Basti dire che in un anno Shanghai ha guadagnato il 155% e ora in poco meno di un mese ha perso oltre il 35%. La Cina è lontana, italiana, si può dire, ma meno di quanto si pensi. Ieri, per esempio, i titoli del lusso, anche quelli italiani, hanno segnato pesanti perdite, perché, questo è un altro motivo di preoccupazione, le difficoltà della borsa cinese potrebbero essere determinate non solo da una bolla finanziaria, ma anche da un rallentamento della principale economia asiatica, con ripercussioni che sono facili da capire se si pensa che, ad esempio, nel settore del lusso, ormai un acquisto su tre è fatto da un consumatore cinese. Timori di rallentamento della crescita arrivano anche dagli Stati Uniti, che evidentemente stanno soffrendo più del previsto per il rafforzamento del dollaro. Sullo sfondo poi le crisi geopolitiche, l'ISIS, il terrorismo internazionale, la questione russo-ucraina, tutto pesa sui mercati. Insomma, non un gran momento. Il fatto che i fronti aperti siano così numerosi non aiuta certo a tranquillizzare gli animi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sono le 9 e 9 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare di Grecia. Una Grecia, lo sapete, ormai è in bilico, c'è tempo fino a domenica per tenere la Grecia all'interno dell'euro, parliamoci chiaro. Tsipras ieri ha illustrato il suo piano all'Europarlamento, oggi parlerà con l'Eurogruppo. E noi vogliamo discutere con un punto di vista privilegiato, perché è una persona che, dopo essere stato anche temporaneamente commissario in Italia della Spending Review, da cui poi ha tratto anche l'esperienza per scrivere un libro edito da Feltrinelli che si intitola La lista della spesa, ora è tornato al suo principale lavoro, quello che aveva temporaneamente lasciato, è tornato a essere direttore esecutivo dell'Executive Board al Fondo Monetario Internazionale. È Carlo Cottarelli che è con noi e che ringrazio, ben ritrovato, dottor Cottarelli, eccoci qui. Buongiorno. Buongiorno. Senta, la domanda chiave è quella sulla ristrutturazione del debito. Lei sa che Tsipras ancora ieri da Atene e all'Europarlamento chiede questa ristrutturazione del debito, e per la verità anche gli Stati Uniti premono in questo senso. È forse il punto di maggiore frizione con i creditori. Ci sarà, ci dovrebbe essere questa ristrutturazione secondo lei? Ma prima di tutto, secondo me, la questione fondamentale non è la ristrutturazione, secondo me la questione fondamentale è le politiche di riforma, quindi un accordo sulle politiche che la Grecia, politiche economiche che la Grecia deve attuare in futuro. La questione della ristrutturazione o della quello che viene chiamato il reprofiling, il cambiamento nelle possibili scadenze del debito, è una cosa che deve pure essere affrontata, però è chiaro che questa questione può essere affrontata soltanto se c'è un accordo sulle politiche economiche. Sì, cioè lei dice prima Tsipras deve mostrare che cosa vuole fare e poi si può discutere anche di questa ristrutturazione del debito. Ma a me sembra che lo stesso Fondo Monetario nel documento la Debt Sustainability che è stato pubblicato fa vedere diversi scenari e sostiene che quasi certamente ci sarà bisogno di un riprofile, cioè un cambiamento delle strutture, della scadenza del debito. Se poi sotto certe ipotesi è anche necessario un haircut, però al tempo stesso bisogna riconoscere queste previsioni, sono previsioni di lungo termine che dipendono in maniera critica dalle ipotesi su quanto crescerà l'economia greca nei prossimi 20 anni, quali saranno i tassi di interesse che la Grecia dovrà pagare quando tornerà sul mercato, sono previsioni molto incerte. Mm-hmm. Questo io dico la prima cosa, che ci sia un accordo sulle politiche, poi bisogna vedere quanto si può fare dal punto di vista del debito. Ecco, ma da questo punto di vista lei vede una apertura da parte del governo di Atene, perché Tsipras ha chiesto anche 7 miliardi subito per pagare pensioni e stipendi e 30 miliardi nei prossimi anni. Cioè, secondo lei sta anteponendo le necessità liquide da avere subito, oppure ha un piano credibile? Questo non lo so, il piano deve essere ancora presentato in maniera dettagliata. Ieri qualcosa ha già detto all'Europarlamento, qualcosa ha già detto. No, cioè non si può. Cioè per valutare la qualità di un piano bisogna avere i dettagli, bisogna avere le specifiche i dettagli specifici delle misure. Non si può parlare in generale di fare certe riforme, bisogna vedere che riforme devono essere fatte. Quello che per ora è mancato, e spero magari ci sarà oggi, è appunto un piano dettagliato che possa essere discusso con i creditori, con i paesi creditori. C'è un qualcosa sul quale secondo lei i creditori non possono transigere? Mi faccia un esempio concreto. Si è parlato che la Grecia vuole mantenere il 30% di esenzione di IVA per le isole, vuole un'IVA agevolata per il turismo, sulle pensioni, vuole la contrattazione collettiva dei salari, e su questo i creditori non vogliono. Qual è il punto sul quale Tsipras si deve mettere secondo lei molto in gioco? Ma dunque, cioè prima di tutto ci deve essere un accordo su quello che è l'obiettivo del surplus primario, quindi le entrate al netto delle uscite per interessi. La Grecia ancora stava raggiungendo una posizione di surplus primario nel 2014, poi c'è stato un deterioramento e quindi è chiaro che un paese deve almeno avere un surplus primario, quindi ci deve essere un accordo sulla dimensione di questo surplus per il 2015, 16 e 17. In che modo poi raggiungerlo è un'altra questione, ma è chiaro che per esempio un'azione sul lato delle pensioni credo sia necessaria, visto anche il fatto che le pensioni greche rimangono abbastanza elevate rispetto al reddito greco. Quindi un intervento sulle pensioni le sembra, diciamo, una delle riforme? Sì, però anche lo stesso è una delle cose, appunto il governo greco non credo che abbia detto che non intende, il governo greco ha detto che intende muoversi anche nell'area delle pensioni, sì. Si tratta di discutere esattamente che cosa fare. Si tratta di capire bene le carte in tavola, esattamente come intervenire. Esattamente. Tra l'altro, dottor Cottarelli, io le voglio presentare anche il nostro inviato, è Sole 24 Ore, da giorni in Grecia, si trova in piazza Sintagma, se non sbaglio, tra l'altro è Vittorio D'Arolde, che sulla Grecia ha scritto anche un libro che io consiglio a tutti perché fa capire da dove nasce tutto, La Grecia ferita, cronaca di un waterboarding spietato. Buongiorno, ciao Vittorio. Ovviamente. Buongiorno a voi, buongiorno dottor Cottarelli. Ci racconti qual è il clima lì, di immagino grande attesa in vista di domenica, e se vuoi ovviamente una domanda a Cottarelli. Sì, naturalmente qui c'è grande attesa perché entro mezzanotte il governo greco deve presentare questo piano di tagli, naturalmente ancora una volta di tagli e di appunto aumento di tasse, per cercare di avere questo surplus primario che accontenti appunto i creditori e conceda questo terzo piano di aiuti. C'è una grande attesa, però devo dire c'è anche molta tranquillità. Come avrai visto, il referendum si è svolto in una settimana, sì, con una estrema calma, senza disordini, con le banche chiuse e poi con un risultato sorprendente per me, perché io non pensavo il governo riuscisse vincitore con questa proporzione, quindi ha veramente stupito tutti, anche il senso di maturità della democrazia greca. Banche, tra l'altro, Vittorio, banche che dovevano riaprire giovedì, poi non riaprono e rimangono chiuse tutta la settimana, forse riapriranno lunedì a questo punto, forse? Sì, forse, perché naturalmente ci sono solo dei limiti di 60 euro, io sono andato al Bancomat, però essendo straniero con una carta, quindi non greca, ho potuto prelevare di più e mi sono usciti naturalmente degli euro freschi di stampa, quindi posso testimoniare che la liquidità c'è, naturalmente però non potrà essere all'infinito. La domanda che vorrei fare è cosa è andato storto nella Grecia, perché se nell'Irlanda, nella Spagna, nel Portogallo la ricetta a Cipro ha funzionato, perché in Grecia è andato storto? Ecco. Perché un partito che aveva il 4% marginale come quello di Tsipras è riuscito a raggiungere il 36%. Dottor Cottarelli, cosa è andato storto in Grecia? Ma prima di tutto la situazione iniziale era molto più difficile, perché il deficit, la Grecia aveva un deficit fiscale più grosso, aveva un deficit primario del 10%, aveva un deficit delle partite correnti mi sembra vicino al 15%. L'Irlanda, per esempio, aveva una posizione molto più equilibrata dei conti con l'estero, quindi la situazione iniziale era difficile. E poi ci sono state anche nell'implementazione delle politiche da parte delle autorità greche delle cose che non sono andate molto bene, anche abbastanza di recente. All'inizio del 2014, quando le cose stavano andando bene, hanno cambiato il capo dell'agenzia, di quella che sarebbe in Italia l'Agenzia delle Entrate. Quella è stata una cosa che di nuovo è una cosa che ha scoraggiato chi naturalmente cercava di combattere l'evasione fiscale. Quindi ci sono stati degli errori da parte delle politiche, ci sono state anche da parte della comunità internazionale all'inizio soprattutto degli errori, nel senso che all'inizio si è dato a prestiti alla Grecia a tassi di interesse troppo elevati nel 2010 e nel 2011. La cosa poi è stata corretta, adesso la comunità internazionale, l'Europa sta prestando alla Grecia a tassi bassissimi, pari praticamente al tasso che paga la Germania e con scadenze estremamente lunghe. Però dottor Cottarelli, le chiedo questo, non è che se si ristruttura il debito ci sono anche altri stati che dicono ma come? E allora a noi no, cioè il rischio di aprire una sorta di crepa nella diga per cui se si fa per la Grecia si deve fare anche per tutti. Sì, dunque la Grecia è in una situazione particolare, diciamo, non è che ci sono molti paesi che hanno una situazione difficile come la situazione greca. Credo che ci sia anche, non credo che al momento la preoccupazione sia di questo genere, nel senso non siamo più in una situazione in cui il timore del contagio è come quello che ci poteva essere nel 2011 e nel 2012. Credo che ci sia più che altro una questione forse di equità. I portoghesi per esempio potrebbero dire ma noi abbiamo fatto l'aggiustamento, appunto, noi non c'è stato appunto fatto l'abbonamento al debito. È una questione politica più economica, più che economica. Secondo lei, sinceramente, il rischio che la Grecia domenica o lunedì sia fuori dall'euro, o comunque che ci sia una Grecia fuori dall'euro, è un rischio concreto? Beh, che ci sia un rischio concreto non c'è dubbio, io credo che si possa ancora evitare. Si può ancora evitare. Vittorio D'Arold, questa è la percezione che hanno i greci, cioè sanno che si stanno giocando veramente una partita del futuro molto importante, Vittorio? Sì, assolutamente, c'è la percezione, direi da lunedì hanno la percezione che la Grexit, l'uscita della Grecia dall'euro è una possibilità reale. Quindi c'è una percezione reale, però mista anche a tranquillità e a un certo senso di dignità, nel senso che c'è soprattutto da parte dei giovani che hanno votato in massa per il no, una rivolta nei confronti dell'Unione Europea vista soprattutto non come un'eurozona dove tutti i paesi hanno uguali diritti e c'è una ridistribuzione anche della ricchezza prodotta, ma in qualche modo una eurozona dove c'è un paese più forti creditori e paesi più deboli debitori, e non era questa l'Europa che insomma sognavano i greci e penso sognavamo tutti noi. Io ho ancora due domande per il dottor Cottarelli, poi lo ringrazio intanto e lo liberiamo. La prima è questa: il Fondo Monetario ha stilato un rapporto con anche la sua firma che coinvolge tra vari stati anche l'Italia. Sui giornali è finita anche una sorta di analisi di questo tipo. Il rischio di Atene è un rischio che può essere contagioso e riguarda anche l'Italia. Potrebbe riguardare l'Italia. Allora le faccio la domanda diretta. C'è questo rischio concreto di contagio anche per l'Italia, Cottarelli? Ma dunque, se guardiamo il comportamento dello spread, vediamo che c'è stato, che poi è un indicatore appunto del possibile rischio di contagio, vediamo che c'è stato un piccolo aumento. Siamo molto lontani dalla situazione del 2011 e 2012. Siamo in una situazione in cui c'è una concreta possibilità di un paese come la Grecia che esca dall'euro, eppure lo spread rimane su valori abbastanza bassi. Quindi io credo che dal 2011 al 2012 l'Europa abbia posto in essere delle misure tali per cui il rischio di contagio è molto più basso di quello che era una volta. Questo ci rassicura. Vittorio D'Arold, hai un'ultima domanda per Cottarelli, poi lo liberiamo. Sì, volevo chiedere se non ci fosse qualcosa che rimpianga nella gestione soprattutto della Grecia nei confronti anche magari di una politica di austerità eccessiva in un momento già recessivo, se non fosse stato meglio cercare anche di migliorare, non so, il mercato dei prodotti, cercare di migliorare anche altri elementi che hanno fatto sì che effettivamente lo sfogo dell'export ad esempio in questo paese non ha avuto quel successo che ci si aspettava. Le riforme in linea di principio c'erano, dovevano essere attuate, in parte non sono state attuate. Credo che se c'è stato un errore da parte della comunità internazionale è stato quello all'inizio di non capire che bisognava fin dall'inizio dare prestiti alla Grecia a tassi più bassi. Il problema è stato risolto successivamente, però questo ha creato una difficoltà all'inizio che poteva essere evitata. Intanto staremo a vedere. Noi la ringraziamo molto, Carlo Cottarelli, per essere stato con noi, ricordo, direttore esecutivo dell'Executive Board al Fondo Monetario, e ricordo anche il suo libro, se volete, invece della sua esperienza recente, La lista della spesa, come commissario della Spending Review. Oggi non abbiamo parlato di questo perché, ovviamente, a parte che è una vicenda passata, ma poi lì sul suo libro ci sono i consigli che dà, e poi la Grecia si impone. Io vorrei concludere proprio con Vittorio D'Arold. Tu ieri hai dato i numeri, nel senso che hai scritto i numeri precisi, che vorrei tu fornissi agli ascoltatori, perché poi questo significa, cioè, quanto costa, quanto, di quanto ha bisogno adesso Atene ogni mese per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, per pagare le pensioni, cioè cose che servono al di là delle discussioni, che se si trovano bene, se no è un disastro. Esatto, guarda, allora la questione è molto semplice, è stato un po' complicato, però la chiave di lettura per capire poi una crisi è quella, appunto, di arrivare ai numeri come elemento per capire la crisi. Allora, loro hanno pensioni e salari, la somma di queste due mensili, di queste uscite, fa 2,7 miliardi. Questi 2,7 miliardi sono le spese necessarie, il governo in questo momento deve pagare questo, però ogni mese 2,7. Poi però ha anche un altro problema, i fornitori, per pagare naturalmente quello che sono per gli ospedali, per le scuole, eccetera. I fornitori sono fermi da gennaio, cioè dal momento in cui Tsipras ha preso il potere, ha bloccato il pagamento di qualsiasi fornitore interno, i quali naturalmente sono in difficoltà, qualcuno sta anche licenziando i dipendenti, e lì invece andiamo a 4 miliardi di arretrati, quindi è un altro piccolo buco che si sta creando. E questi soldi, allora, ci sono nelle banche greche, o meglio nelle casse dello Stato greco, ci sono questi soldi o no? Perché Tsipras ha chiesto 7 subito, sull'unghia, altrimenti... Il problema è questo, guarda, ci sono, normalmente la Grecia vive con 10 miliardi di liquidità, nel senso che ha un contante, un circolante di questa cifra. In questo momento, sotto i materassi, ci sono 50 miliardi. Cioè, cos'è successo? I greci, per paura di essere usati, hanno ritirato tutto, qualcuno l'ha messo nelle cassette di sicurezza e ha fatto male, perché le cassette di sicurezza sono bloccate, così come anche i conti correnti, e quindi in questo momento sotto i materassi delle case greche ci sono 50 miliardi che circolano. È per questo che il paese va avanti, perché in realtà ha 5 volte la liquidità necessaria e funziona. Poi ci sono i turisti che arrivano con i marsupi pieni di euro, dollari e sterline, e in questo modo stanno tenendo a galla. Sì, però si potrà dire, veramente sarà un autunno caldo. Questa di solito si usa per l'Italia, ma prima o poi finirà questa disponibilità. Voglio dire, quindi, ben prima dell'autunno, ovviamente già forse domenica avremo una risposta per capire quali saranno i destini della Grecia, se dentro o fuori dall'euro, e tutto quello che ne consegue. Ringrazio Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore, ricordo anche il suo libro, che è La Grecia ferita, cronaca di un waterboarding spietato. Grazie davvero, domani ancora siamo in onda fino alle 9.30 con 24 Mattino, puntuali dalle 6.30. Noi siamo qui con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli, non Peter Pescapè, che va in ferie da oggi. Mannaggia a te, mannaggia. A domani.